Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci di nuovo qui con Ferry Boat. Io sono sempre Insergante, il traghettatore. Questo viaggio è un viaggio veramente speciale. Non esito a definirlo fantastico, anche se il termine è un po' improprio, ma lo capirete insieme con questa prima, con queste due tappe che faremo. La prima in Uganda e la seconda in Kenya. Sentite i nostri argomenti di oggi. Missione microcredito per un americano in Italia, anzi in Africa, sotto il segno della Caritas. Pochi soldi, molte idee, in Uganda piccole imprese crescono soprattutto al femminile. Altro che carta, meglio un telefonino di credito, anche senza conto corrente, pagare si può. Ecco, sentite i cori che ci portano in Uganda, ci portano a Kampala. Per la verità ci porta Frank Shinkwe, che è della fondazione Spesalvi, l'americano in Italia di cui abbiamo parlato nei titoli. Frank Shinkwe di Chicago, vive in Italia da 5 anni, collabora con l'Alta Scuola Imprese e Società della Cattolica. È andato lui a Kampala per portare avanti questo progetto Wekembe. Frank Shinkwe, intanto salve. Piacere. Progetto Wekembe, in due battute. In due battute, progetto Wekembe è un progetto di microcredito che si innesta nella diocesi di Kampala e di Luero in Uganda, fondato dall'arcivescovo Luanga, che è qui presente con noi. È un intervento per le donne, soprattutto le donne che lavorano, ma che lavorano a livello sussistenziale, per migliorare la loro qualità di vita, offrendogli piccoli prestiti che possono investire nelle loro attività economiche e fattorie. Quello che io definivo fantastico e un po' speciale, che non potete immaginare, è quanto siano realmente piccoli questi prestiti. Non ve lo spieghiamo però, ma ve lo raccontiamo, anzi a raccontarlo è una di queste donne. Pensate, Frank, tu hai incontrato 90 aspiranti imprenditori, di cui 86 erano donne. 86 erano donne, sono soprattutto donne che hanno sia attività agricole che attività commerciali, sì. Una di queste donne a cui abbiamo chiesto di raccontare, e ovviamente ci siamo messi in collegamento con lei in Uganda, si chiama Greti Chuanga. Ascoltate questa incredibile storia. So I'm Greti Chuanga from Katikamu Parish, Kasangarewe Diocese. Mi chiamo Greti Chuanga e faccio parte della parrocchia di Katkum. Ho 3 bambini e sono sposata. Quando ho iniziato a lavorare con Wekembe, avevo solamente una piccola fattoria e una casa che era molto danneggiata. My first loan, it was 100,000. By then, we had not yet had enough money. Ho ottenuto un primo prestito di 100 sterline ugandesi, equivalenti a 40 euro, e con questo denaro sono riuscita a comprare semi e materiali per la mia piccola fattoria. Il secondo prestito che ho ottenuto ammontava a 80 euro, che ho investito coltivando caffè e banane. Questa attività mi ha dato un reddito che mi ha permesso di sistemare la casa e di costruirne il tetto. Il mio ultimo prestito è stato molto grande. Mi hanno dato circa 250 euro e con questo denaro ho potuto aprire una piccola farmacia. Con il reddito della farmacia posso così ripagare il mio prestito. Quindi, grazie al progetto Wekembe, ho potuto ricostruire la mia casa, ampliare la mia fattoria e aprire una farmacia che mi permette di mantenere la mia famiglia. È inutile commentare. La nostra cultura, la cultura occidentale, la cultura del consumismo sfrenato e compulsivo non può neanche concepire rapporti di questo tipo. Monsignor Cyprian Dikito Luanga, lei è arcivescovo di Kampala. Mi soffermo un attimo perché ci tengo a precisare che è anche presidente della Caritas Uganda e Africa, vicepresidente della Caritas Mondo. Ed è grazie a lei che questo progetto Wekembe è partito e sta realmente incidendo nel tessuto economico e sociale di Kampala. Sì, quando ero studente a Roma nell'anno 1992, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha annunciato la sua visita pastorale in Uganda, e l'anno dopo. e poi i vescovi ugandesi hanno scritto una lettera pastorale con il titolo La tua luce deve illuminare gli altri. Quindi ho deciso, dopo il permesso del mio vescovo, di fare 2 anni di un corso sullo sviluppo rurale. E poi ho scritto una tesi dicendo che la cooperazione può aiutare la gente a svilupparsi. E poi con riferimento degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 42 fino a 47, dove si dice la prima comunità, le prime comunità cristiane vivevano insieme, pregavano insieme e poi anche hanno risolto i loro problemi sociali. Quando sono tornato a casa mia, ho chiesto il mio vescovo di cominciare, quindi abbiamo cominciato facendo i piccoli gruppi di 5 persone, gli danno una formazione abbastanza lunga, una settimana, e così hanno imparato tante cose, fra cui c'è questo se vi fanno la cultura del risparmio, la cultura del risparmio, sì. Anche di accendere i prestiti. Ed è nato da qui l'ispirazione, sì, del progetto Weekend. Frank, per capire, per spiegare meglio a chi ci ascolta, noi abbiamo sentito parlare di 40 euro, 80 euro, ci mangiamo una pizza e non basta purtroppo. Come funziona il meccanismo? C'è una banca dietro a questo progetto che ha finanziato i prestiti? L'arcivescovo ha iniziato questo processo con un prestito da una banca che equivale a 4.000 euro. E con 4.000 euro ha finanziato i suoi primi gruppi. Attualmente Wikembe opera insieme con una banca, ma la banca è semplicemente depositario dei fondi che vengono gestiti da Wikembe. Monsignore, l'esperienza di Kampala è un'esperienza che lei come presidente della Caritas vuole espandere il più possibile in Africa. Sì, sì, ho parlato di questo con i membri di Caritas Africa, anche quelli di Caritas Internazionale, e poi alcuni di loro sono venuti in Uganda. Nell'anno 2005 c'è stata una riunione a Kampala, quindi alcuni di loro sono andati nei nostri villaggi, hanno visto la cosa reale e poi funziona bene. Aiuta la gente sono più felice, e possono fare tante cose. Quindi abbiamo sentito da questa prima, ma le sentiremo ancora di testimonianze, Frank. La cosa che sorprenderebbe di più i nostri banchieri, ma anche noi consumatori, è che questi prestiti che proporzionati al tenore di vita sono comunque dei prestiti importanti, vengono concessi senza alcuna garanzia e questa gente paga sempre. Paga sempre. Infatti nella storia di Wikembe non c'è stato neanche un prestito non saldato. Il segreto è il gruppo. Il gruppo funge come garanzia. Il gruppo, sono 30 persone in totale, e il prestito viene erogato al gruppo. Se una persona di quel gruppo non salda il proprio prestito, il gruppo non è più idoneo per ricevere il secondo ciclo di prestiti. Quindi c'è una forte pressione e direi una garanzia che quel gruppo salda il prestito per continuare il ciclo virtuoso di prestiti e di crescita. Va da sé, Monsignore, che è importante la solidarietà, sì, di chi può, di chi ha i soldi, è vero, però è anche più importante quello che lei sta facendo, perché questo vuol dire ricostruire il rapporto con la propria terra, vuol dire lavorare e crescere nella propria terra, non imbarcarsi nei viaggi della disperazione per vivere mondi lontani che non hanno nulla a che vedere con la cultura che questo mondo rappresenta. Sì, come si dice in Italia, insieme si può. Quindi con questa solidarietà la gente può fare tante cose. E poi con i piccoli prestiti tanto può essere fatto. Quindi vi invito tutti di aiutare questa gente che sono poverissimi, però possono fare tante cose per aiutarli. Ci vuole anche di fare l'agricoltura con i mezzi moderni, così possono fare l'agricoltura commerciale. per producere sia il caffè, sia il cacao, il mais e tutto quanto. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Viaggio continuo, abbiamo parlato del progetto Wakembe con Frank Cinque della Fondazione Spesalvi e con Monsignor Cipriani Luanga, arcivescovo di Kampala. Siamo stati in Uganda, abbiamo sentito una prima testimonianza di quello che è possibile fare con un'operazione di microcredito, micro veramente letteralmente. Sentite quest'altra incredibile testimonianza di Florence Luama. Florence Luama from Namasuba. My situation, I lost a husband in 2000. Then, mi chiamo Florence Lumana e vengo dalla parrocchia di Namasuba. Ho perso mio marito dopo 9 anni di malattia, trovandomi sola, senza un lavoro e con 12 bambini da mantenere. 6 erano figli miei e 6 erano figli che io avevo il dovere di crescere. Ho passato un periodo molto difficile perché la mia unica fonte di reddito era la vendita di vestiti usati. Quando ho incontrato il gruppo di Wakembe, come prima cosa mi hanno offerto un corso di formazione e mi hanno aiutata a capire quale attività avrei potuto svolgere. Sul mio piccolo terreno avevo piantato delle erbe locali, come l'aloe vera, e con queste mi hanno insegnato a fare il sapone. Così, con un primo prestito di 120 euro, ho iniziato questa attività. Questo sapone è così benefico contro le punture di zanzare che prima un ospedale e poi un secondo sono diventati i miei acquirenti fissi e mi chiamano continuamente per avere i miei prodotti. Grazie a questo lavoro posso mantenere tutti i miei figli e di questo sono molto grata a Wakembe e all'arcivescovo Luanga. Dodici bambini... Mi è sembrato di capire, Frank, aiutami a tradurre, che 6 bambini sono di questa donna, sono di Florence, ma 6 è una bellissima espressione quella che lei ha usato di ha sentito il bisogno di aiutarli a crescere, non ha detto adottati. Il senso della comunità è veramente forte in queste città. Il senso della comunità e la maniera di vivere insieme in Uganda è veramente particolare. Troviamo persone che allevano figli loro, ma figli anche dei loro vicini e figli del loro familiare. Infatti una cosa molto interessante è che nessuno viene chiamato zio, per dire. Tutti vengono chiamato padre. Nessuno nella famiglia viene chiamato zia, ma tutti vengono chiamati madre. Fenomeni che, chissà perché, adesso non c'è il tempo, non è neanche il tema, non avvengono per esempio nei paesi arcivescovo latinoamericani. Questa estensione naturale della paternità, della maternità non c'è negli altri paesi, è solo africano come sentimento? Perché viviamo, abbiamo una forte feeling della famiglia e poi ogni famiglia fa una comunità vera nel villaggio. E poi, come Franco ha detto, quando stai nella famiglia, e sia un mamma, madre oppure papà, non si dice zio o zia, non esiste. Voi vi starete chiedendo come c'entra il progetto Wakembe con l'economia sociale. In realtà c'entra evidentemente tantissimo, perché l'economia sociale tiene conto, vi ricordo per quelli che magari ci ascoltano per la prima volta, del fatto che il business non è solo profitto, ma è anche people, gente, territorio, ambiente. E il profitto ci sta, tant'è vero, Frank, che ovviamente nella misura proprio minima possibile immaginabile per noi occidentali, questo è un business, è un prestito con un ritorno, magari anche degli interessi, o forse... Assolutamente è un business che si autosostiene. L'arcivescovo, ma anche come tutte le altre esperienze di microcredito, l'arcivescovo opera da 10 anni. In questi 10 anni è perfettamente autosostenibile e l'aumento di capitale fa crescere sia la possibilità di offrire più prestiti a più persone, ma anche crea patrimonio, crea utile che viene reinvestito nella comunità. Monsignor Luanga, un'ultima battuta, poi andiamo verso la conclusione della puntata. Lei è presidente della Caritas Africa. Credo che sia il massimo possibile immaginabile in termini di solidarietà e di socialità la Caritas in Africa, perché sono tanti i figli, per rimanere nella metafora che ha usato Frankie Cinque, della Caritas in Africa. Sì, siamo 45 paesi che fanno Caritas Africa e poi vogliamo crescere questa mentalità di famiglia nei nostri paesi tramite la Caritas. E poi la Caritas è un dipartimento più vecchio nella Chiesa, perché ha cominciato dopo l'ascensione di Gesù. Quando leggiamo negli Atti degli Apostoli capitolo 6 verso 1 alle 7, e la Caritas ha cominciato lì quando hanno creato la diaconia, questi sette uomini santi che hanno aiutato la gente nella pastorale sociale. Complimenti all'arcivescovo Kitsito Luanga, che un po' invidiamo perché ha il senso concreto, vero, di quello che può fare per aiutare gli altri, e certamente questi complimenti vanno estesi anche a Frankie Cinque, che dalla convulsa Chicago attraverso la confusa Italia arriva a vivere queste sensazioni che sono veramente profonde. Non sono le uniche, i segnali che arrivano dai paesi africani, ce ne sono anche di, diciamo così, più tecnologici, che danno il segno di una cosa importante, di quello che la tecnologia può fare per aiutare, per far crescere i consumatori, intesi nel senso di benessere, di possibilità di autosostenersi. La tecnologia, in questo caso, a cui facciamo riferimento, e andiamo in Kenya, è il mobile money transfer. Altro che terzo, il Kenya è il primo mondo, almeno nel mobile money transfer. Il mercato keniota dei pagamenti via cellulare è tra i più sviluppati. Ci sono poco meno di 8 milioni di utenti che maneggiano virtualmente quasi 320 miliardi di scellini keniani, circa 300 milioni di euro, movimentati attraverso 125 milioni di transazioni. Il servizio si chiama M-Pesa e funziona tramite un'applicazione installata nella SIM card che usa gli SMS per spostare i soldi che vengono caricati su un borsellino virtuale. I terminali di tanta tecnologia sono però niente affatto virtuali. Un esercito di 10.000 agenti in carne e ossa, spesso piccoli e parsimoniosissimi commercianti. Filippo Renga è responsabile dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, che si occupa proprio di studiare il fenomeno del mobile payment. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Beh, questa scheda del Kenya ci aiuta a capire come la tecnologia può essere utile diciamo rispetto ai mercati più difficili, ma è anche un modo per rendere più autonomi dal punto di vista, diciamo, dei processi finanziari, che spesso sono complessi e che rendono ancora più difficile poi le operazioni. Sì, è proprio così. Il cellulare a livello internazionale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, sta diventando uno strumento di digitalizzazione, proprio per superare quello che viene definito il digital divide. E anche per quanto riguarda i servizi finanziari, il telefonino diventa un sistema sostitutivo al personal computer. Attraverso il telefonino vengono attivati vari servizi, si può accedere al conto corrente bancario e, ad esempio, come in Kenya, si trasferiscono fondi. A me sembrava importante anche sottolineare proprio l'alternativa, no, al conto corrente, cioè anche chi non ha il conto corrente, utilizzando il telefonino, che è già molto diffuso anche nei paesi come il Kenya, utilizzando il telefonino si può muovere denaro anche quando non si ha materialmente in mano, e questo può essere importante in un'economia in crescita. Sì, assolutamente, anche perché il telefonino, questo money transfer, consente anche livelli di sicurezza migliori rispetto al contante, al semplice contante, tanto che a livello mondiale sono quasi oltre 50 i servizi che consentono ad immigrati di rimettere denaro ai propri cari o trasferire denaro ad altre persone. Molte di queste applicazioni sono proprio in paesi in via di sviluppo. Questa tecnologia, ma ne parleremo in un altro contesto, comunque è una tecnologia che ha una sua importanza anche nei paesi occidentali, proprio nel momento in cui sta cambiando il tessuto etnico di questi paesi e ci sono presenze importanti, come in Italia, ma in Europa in generale. di persone che non hanno un conto corrente. Sì, assolutamente. Per gli immigrati è molto più facile accedere attraverso il proprio telefonino a servizi bancari di home banking. Conseguentemente questi vengono anche utilizzati in alcuni casi, anche qui in Italia ci sono alcuni esempi proprio reali di persone che trasferiscono denaro attraverso il telefonino su carte di pagamento che però sono presso i propri cari nei vari paesi, in India o nelle Filippine. Grazie Filippo Renga, riparleremo di questo money transfer che può avere ripercussioni veramente decisive nello sviluppo, anche nel contenimento forse di alcune storture che hanno creato, cronaca ahimè di quest'ultimo anno, grossi problemi a livello internazionale. Dobbiamo ringraziare sentitamente Monsignor Kizito Luanga, che è stato qui con noi assieme a Frank 5, che ci hanno spiegato il progetto Wikembe. Grazie alla redazione Anita Panizza e regia Filippo Aureggi. Vi ricordo che questa trasmissione si può riascoltare su www.radio24.it. Grazie, a risentirci.